Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ma le tipe con dei davanti oggi? Sì, ma è troppo parla qua, c***ani. Grazie, già sono... Gio, saluta. Gio, saluta. Non è va, non è va. Dica, mettiti in mezzo te. Quanto pensi che sentire per 300 euro? E voi sentite soltanto l'audio. Adesso devo descrivervi la scena perché è divertente, divertente. È un eufemismo, fa pensare. Vi consiglio di andare a vedervi questo video che su Facebook già è stato condiviso da quasi 100.000 persone e gira da ieri sera. Ci ho scritto un pezzetto questa mattina, lo trovate sul sito della stampa.it, ma vedrete che ne se ne parlerà, sarà l'argomento di questa domenica, e ci farà la lacrimuccia la Barbara D'Urso, e Giletti ci farà il volto corrucciato, ci sarà Crepè che dirà la sua da Vespa, e tutti diremo come mai questi figli sono così cattivi. Cos'è? Una ragazzina di 15 anni, davanti a un giardinetto di periferia, ci troviamo a Bollate. Sono appena usciti dall'Istituto Tecnico Commerciale Primo Levi di Via Varalli. Cosa fanno all'Istituto Tecnico Commerciale? Ma non so, i ragionieri forse, questi sono ragazzi che un domani avranno in mano da gestire le amministrazioni di qualche artigiano, di qualche professionista, faranno conti. Poi nel frattempo stanno lì tutti assieme, sono una decina, i maschi stanno più in periferia rispetto al capannello. E stanno lì, incidono, il sentito, ma troppo parla. Perché? Perché in quel luogo si sta svolgendo un atto di giustizia. Il gruppo delle ragazze che è al centro del capannello hanno deciso che debba essere punita una di loro per mano di un'altra che probabilmente ha avuto con lei a che dire su un fidanzatino, roba del genere, le dispute tra ragazzine di liceo, hanno 15 anni circa. Una è mora, una è bionda. La bionda attacca e la mora subisce. All'inizio è uno scontro verbale, quella mora fa un po' l'altezzosa, risponde nei toni, poi l'altra parte decisa, comincia a prenderla a calci, calci precisi, sistematici, con un certo stile, con una certa arte, alterna calcio destro, pugno sinistro, comincia a pestarla. L'altra dice: ma che fai, mi meni? Dice: sì, ti meno. Intorno i ragazzi cominciano a fare il tifo, cioè, finalmente, fra un po' si vede il sangue, sempre tutti con i telefonini in mano, filmano. La scena si sposta perché quella che prende le botte non ha intenzione di reagire, non fa per lei, non è un tipo che mette le mani addosso, non è abituata. L'altra incalza, sono tutti vestiti bene, tutti fighetti. Oggi non c'è più differenza fra un liceo di famiglie terrazziere romane, composte da avvocati, commercialisti, altri professionisti, e una famiglia delle borgate. Vestono tutti alla stessa maniera. Non si sfugge dal dress code, che è l'unica maniera per confondersi nel gruppo, per non essere attaccati. Però quando il gruppo decide che devi essere punito, devi essere punito. La mora scappa, corre, si insegue, l'altra la prende, la sbatte contro un cartello stradale, la prende per i capelli e la butta per terra. Quella comincia a urlare, chiede aiutatemi, aiutatemi, ma nessuno l'aiuta. Continuano a filmare. La butta per terra, comincia a prendere la calci in faccia, l'altra terrorizzata, si vede, certo, non è abituata, i calci in faccia possono anche far male. Si rialza, poi si rimette giù e gli altri continuano a filmare. Per favore aiutatemi! Quel toc è la scarpettina tecnica di marca che sbatte sulla testa con i capelli belli lunghi, tranquilli, come vanno oggi, penso, immagino, in moda. Più volte gli sbatte sulla testa, destro, sinistro, destro, poi la ripiglia su, la risbatte per terra, la riprende a calci, poi alla fine un'amica, presa da compassione, la prende, la tira su, fa scudo con il proprio corpo, gli altri tengono ferma quella che stava menando, che alla fine è contenta, dice: vedi, hai avuto il fatto tuo. La cosa finisce, sì, finisce fino a un certo punto. Naturalmente l'esito di questa ripresa è subito su Facebook, immediatamente. Tutti lo possiamo vedere da ieri sera, ripeto, si sta passando di bacheca in bacheca. il preside della scuola, la prese, almeno leggo questa mattina su dei quotidiani che già danno la notizia, ha chiamato i carabinieri sono intervenuti, la famiglia della vittima ha denunciato la pestatrice, saranno fatti loro, andrà avanti per gli iter giudiziari normali, tranquilli, daranno a lei una pena simbolica, dovrà fare delle attività di volontariato, qualcosa del genere, probabilmente non ci sono state lesioni gravi, probabilmente è stata una cosa solo di shock, probabilmente nessuno è morto, ma su Facebook continua naturalmente, sono aperti già i gruppi, a favore o contro la bionda, a favore quelli che dicono hai fatto bene, si fa così, si mena, nella vita bisogna imparare, poi hai visto quanto sei figa, già sei sui giornali, già ti abbiamo visto sui siti, mi hanno detto che ti ha chiamato il TG, vedrai che diventerai un personaggio. E gli altri invece che ce l'hanno con la bionda difendono la vittima, infame, bastarda, schifosa, puttana, tutto quello che è possibile dire, vieni da noi, ti facciamo questo, ti facciamo quell'altro, ti ammazziamo, ti sfondiamo, ti facciamo a pezzi, ricorre costantemente il tema morte e improvvisamente appaiono i siti delle protagoniste, quella passiva e quella attiva, già si vedeva che quella che picchia aveva detto t'ammazzo, ti uccido, la parola uccidere, la parola ammazzare viene usata con molta familiarità, molta naturalezza, non è una metafora, l'atto dell'uccisione è qualcosa che può essere comunque contemplato nell'ambito delle azioni possibili, tutto questo sta esplodendo in rete, sta diventando un grande momento in cui i ragazzi avranno possibilità di trasferire finalmente nel tempo indicibile dell'epica e della memoria quello che in realtà è forse un banale episodio, banale volete dire, che avviene nelle nostre scuole. Io vi consiglio di guardarlo perché? Perché così capite molte volte, perché i vostri ragazzi a volte tornano a casa, sono taciturni, non vogliono dirvi cosa è accaduto a scuola. Come la pensate? 800240024. Professor Luca Bernardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Direttore del Centro di Ascolto per Adolescenti del Fate Bene Fratelli di Milano, ha scritto un libro, Il Bullismo Femminile, Cult Editore. Lei non so se ha visto questo video, gliel'ho descritto e gliel'ho fatto ascoltare, un po' come se l'avesse visto. Ci ritrova uno schema consueto, conosciuto, studiato, analizzato da lei? Purtroppo questo video non solo l'ho visto, ma e non è l'unico e non è solo, e ormai da tempo abbiamo il dispiacere di vedere con i nostri occhi, non solo noi, ma anche i ragazzi attraverso tutti quelli che sono i social network, tutti questi aggressioni e attacchi. Soprattutto vediamo la grande novità, che non è solo il ragazzo, l'uomo, il maschio che attacca, ma come dicevo anche nel libro Il Bullismo Femminile, oggi le ragazze hanno richiesto e hanno ottenuto, ovviamente in senso negativo, pari dignità nell'aggredire ovviamente una coetanea o coetanei. A me viene in mente, professore, questi film della gioventù bruciata degli anni 50 in cui i bulli si affrontavano tra di loro e le ragazze erano le cheerleader, stavano intorno, facevano il tifo, tifavano per l'uno o per l'altro. In questo video è esattamente il contrario. I maschi sono il coro, il sottofondo, il background rispetto a una vicenda di botte, di sangue che le donne si stanno regolando tra loro. E soprattutto c'è l'anticipazione. Lì sono già tutti con i telefonini e aspettano che inizi. È come se ci trovassimo, non voglio dare tinte troppo fosche, ma l'ambiente emotivo è questo, nella piazza in cui c'è un giudizio capitale. Vengono in mente quelle fustigazioni che si vedono nei video che vengono dai paesi islamici integralisti, che c'è una donna per strada che viene frustata, tutti guardano, questa urla, si dimena, cerca di difendersi, impassibile il boia la continua a frustare o le taglia la testa, indifferentemente. È questo il quadro? Sì, purtroppo sì, nel senso che per fortuna la violenza si è anche fermata, perché come si vede nell'ultima parte del video, la ragazza diciamo col bomber o col giubbotto bianco la colpisce anche con calci, non solo in faccia ma in testa. Dava calci in testa. Esatto, col pericolo anche di creare dei traumi non solo al momento ma permanenti, quindi creare dei danni veri. In più con quello che sarebbe conseguita questa ragazza dal punto di vista penale, perché quello che non si rendono conto è che intanto quello che fanno è un reato, e al reato consegue una pena, quindi vuol dire anche rovinarsi la vita e per tutta la vita. Reato anche per le persone che assistono e filmano senza intervenire? Assolutamente sì, noi parliamo infatti di cyberbullismo e questo è cyberbullismo, quindi l'utilizzo dei mezzi tecnologici, ad esempio il telefonino, nel riprendere e non far nulla la vicenda che sta avvenendo davanti ai propri occhi. Io direi che in questo caso, visto che la usiamo come case history, non per voyeurismo, io ne ho parlato, ne ho scritto, ho preso gli still frame, togliendo i volti delle persone, ho voluto che la gente capisse e vedesse, perché finché si teorizza pensa sempre uno che è qualcosa che accada agli altri, quella è una scolaresca, quindi saranno stati rappresentati un'infinità di famiglie, di situazioni, di stati sociali, di livelli di educazione. E io ricordo che accadde a Genova qualcosa di simile tempo fa, si accanirono contro un ragazzo disabile, proprio autistico, per questo lo sento particolarmente sulla mia carne, e mentre i bulli si accanivano fisicamente tutti gli altri filmavano. Era una scuola modello che il Ministero dell'Istruzione aveva dotati di primi tablet in cui dovevano cominciare a dimostrare quanto loro fossero nativi digitali. Il preside intervenì, furono puniti, furono condannati a dei periodi di rieducazione, nel senso di fare attività sociale, occuparsi del sociale. I genitori di quelli che hanno filmato hanno protestato al preside: no, ma i nostri figli non l'hanno mica menato il disabile, loro sono limitati a filmare. C'è così poca considerazione e attenzione rispetto alla essere corresponsabili allo stesso livello. Il fatto di filmare non significa che sono dei cronisti di guerra, che non hanno colpa degli eccidi che si stanno svolgendo, che fanno il loro mestiere. No, è creare quell'amplificazione necessaria per cui l'atto diventi ancora più cruento e più epicamente rappresentabile. O sbaglio? Sì, assolutamente, ha detto bene. Il fatto che ci siano questi soggetti, maschio o femmina, soprattutto in questo caso maschi, che filmino, hanno tanto responsabilità e corresponsabilità tanto quanto la ragazza che aggredisce. Per quell'incitamento è tanta cattiveria quanto il calcio che viene dato alla ragazza. Quindi io li metto sullo stesso piano e rendo grave la stessa situazione sullo stesso piano. Lei che ha studiato le dinamiche, io ho avuto l'impressione che ci fosse un set preparato, avevano preparato la location. Io immagino che la persona che menava ha detto: oggi meno questa, preparatevi, erano già tutti pronti con i telefonini, prima che accadesse, che ci fosse anche il semplice accenno di escalation, parlavano, e già i ragazzi sentivo, bestemmiando naturalmente, ma quelli sono fatti loro, non sono un prete, non sono un moralista, dicono: beh, come, tutto parla, quando cominciate? E intanto filmavano, consapevoli di perdere tempo, il filmato deve avere una durata limitata per essere facilmente caricabile, se queste perdono tempo a parlare dobbiamo spegnere e ricominciare da capo, poi ci perdiamo nei momenti importanti. Il set era preparato secondo lei, professore? Secondo me assolutamente preparato, nel senso che sicuramente quelle ragazze con i ragazzi si erano parlati prima, addirittura giorni prima, e avevano individuato la persona che andavano ad aggredire e anche il luogo dove l'avrebbero fatto. Quello sicuramente un po' come il teatro, c'era un palcoscenico pronto, con gli attori pronti, l'unico attore vero che non doveva esserci era la vittima, che purtroppo era ignara. Ecco, noi ci fermiamo un istante, diamo le informazioni del traffico, intanto pregherei chi ci ascolta, e ci ha ascoltato penso con attenzione, chiamare l'800240024, solamente per darci testimonianza se di episodi simili o di accenni che questo accada nelle nostre scuole ne hanno avuto loro esperienza personale. Poi parleremo di quali possono essere le nostre responsabilità. Non possiamo far finta che guardiamo l'esito di qualcosa che non ci appartiene, non appartiene al nostro comportamento e alle nostre omissioni. Melog. Cronache meridiane. Calci, pugni, capelli strappati, grida. È la battaglia per la conquista di un cavalcavia in un quartiere di Milano Nord. Si affrontano due bande di ragazze. Lei è stata oggetto di prevaricazione da parte di una serie di bambine molto violente e soprattutto facevano perno sulla sua timidezza e sulla sua bellezza. Colpevole di essere troppo bella, appariscente e corteggiata, tanto da dare fastidio alle altre giovani studentesse che, accompagnate da altri amici, hanno deciso di punirla. Picchiata fuori da scuola, derisa sulle pagine di Facebook, è successo ad una quindicenne di Vobarno, presa di mira da quattro coetanee, pare per questioni d'amore. Un branco composto da ragazzine che hanno picchiato, insultato e ricoperta di sputi una tredicenne colpevole di essere stata cortese con loro. Accade a Rimini, in un centro commerciale, a settembre. È solo un putpurri di notizie per far capire quello che ci diceva il professor Luca Bernardo. È vero, è reale, è concreto. Questo è un episodio che è rappresentato in tutta la sua sequenza, è da studiare, è una case history, è da guardare attentamente per capire e vedere quello che magari siamo increduli a voler ammettere quando lo leggiamo nei libri, lo sentiamo nelle cronache. Mi scrive un ascoltatore: come si fa, Nicoletti, a essere padre e non piangere davanti a una versione simile? Me lo spiega, ma figuriamoci, risparmiate i vostri liquidi organici per emissioni più gioiose, ma che lacrime, c'è da capire cosa succede in questo momento e prendere se possibile delle risoluzioni. Io sono convinto che questi ragazzi sono stati lasciati a se stessi, qual è il loro esempio? L'esplosione su Twitter di fronte alla domanda di Beppe Grillo. Adesso non voglio pensare che su questo voglio lanciare la croce contro nessuno: cosa fareste con la poltrine in macchina, come hanno risposto i bravi navigatori? Ci farei le peggio cose, figurati. Ormai abbiamo un indicatore della nostra bestialità, rendiamocene conto, non è il luogo responsabile della rete. La rete amplifica, indica, movimenta, accentua. Ambra, buongiorno. Sì, buongiorno. Spenga la radio. La radio è spenta. È il viva voce. Ecco, eccoci brava. Qua. Chiedo scusa. Vada. Eccomi qui. No, io la riflessione che facevo per il lavoro che faccio, insegno, quindi sono sempre a contatto con adolescenti, non sono genitore, però mi confronto spesso con loro e effettivamente dare delle risposte a queste cose non è facile, perché il semplice predicare, vabbè, bisogna stare a essere buoni, calmi, non serve. La riflessione nasce da questo. Mio padre, che era figlio della guerra, mi diceva sempre: guarda che c'è un atavico bisogno di scontro in ciascun essere umano, e dice le guerre servono un po' anche a questo, cioè a cercare di lenire questo bisogno di brutture. Nel momento in cui ci se ne trova tante, poi è come se si è come una droga, no? Ci calmiamo tutti, cioè quindi sono aggressivi perché non hanno fatto la guerra. Ma non so, lui mi diceva sempre questa cosa, mi faceva molto arrabbiare, perché dicevo: no, abbiamo capito l'errore, non lo faremo più. E lui mi guardava con sguardo laconico e mi diceva: sì, ma guarda che prima o poi ci torneremo a quel punto. Beh, lì, guardi, noi, finita umana, c'è bisogno, sì, di scontro, a un certo punto c'è bisogno di scontro. Sì, ma io penso che noi, finita una guerra, abbiamo avuto una guerra civile che è durata ancora per anni, siamo continuati a massacrare, non credo che io penso che sangue chiami sangue, se proprio vuole. Alla fine non è questa, secondo me, il punto di vista. Non è che questi ragazzi avrebbero dovuto fare la guerra, è che questi ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno modelli, e poi hanno questa straordinaria maniera di rendere epico ogni loro gesto quotidiano. Non fanno più niente di nascosto, anzi lo fanno perché si amplifichi. La ragazza bionda diventerà un'eroina, perché vedrete, quando se ne parlerà in televisione, lei sarà la regina del quartiere. Marco, buongiorno, 21 anni. Sì, io volevo portare la mia esperienza. Io, essendo molto giovane, comunque mi sento dentro a questo fatto che è successo. Ti spiego. Io vengo da una scuola, ormai finito a scuola e ormai lavoro. Vengo da una scuola professionale, e nelle scuole professionali, cioè, io abito fuori Milano, quindi una scuola che è completamente in un paese di campagna, con una ottantina di alunni. E io, con un salto in quella scuola lì, io sono un ragazzo comunque che ha un carattere abbastanza particolare, comunque anch'io sono un po' sul timido, che non tende a tanto socializzare con gli altri. E il primo anno sono stato preso di mira dai miei compagni, che magari durante il ritorno da scuola gli prendevano la cartella, magari mi davano, si faceva il gioco dello schiaffo del soldato. Sì, diventavi il passatempo del gruppo, per potersi, bravo, è chiaro. Proprio così. Però cosa è successo? Poi mi sono, a un certo punto, detto: no, io non posso andare avanti così e farmi proprio prendere, cioè, la pisci in faccia dai miei coetanei, anche perché poi tornando a casa, tutto il senso di sicurezza che avevi te lo distruggevano in un ritorno da casa. Io poi comunque ho fatto segnalazioni comunque sia a mia madre che anche ai professori della scuola, e li hanno provveduto dicendo: ragazzi, voi continuate a comportarvi così e vedrete che qualcuno si giocherà qualche nota sul diario o qualcosa così, ma roba lieve. Poi comunque le cose si sono placate, diciamo, facendo anche poi comunque più amicizia con le persone, cioè diventavo quasi, una volta che subisci certe cose, dopo diventi anche amico del bullo, e poi dice: no, vabbè, dai, non ti faccio niente perché mi sei simpatico. E lì è un episodio che comunque... Il bullo si smonta facilmente, ahimè, la forza del bullo è basata sul consenso. Mi scrive un'ascoltatrice, dice: mi sto preparando, una ragazza penso, facendo arti marziali, cioè difesa e offesa fatta nei giusti movimenti. Spero di trovarmi davanti a situazioni come quella. Bisogna fare una lezione a certo centro. Se studia seriamente arti marziali, non deve mai sperare di trovarsi in una situazione di doverle mettere in atto. Questo è il principio fondamentale. Torniamo al professor Luca Bernardo. Ricordo che è direttore del Centro di Ascolto per Adolescenti del Fate Bene Fratelli di Milano, autore di Il Bullismo Femminile, cult editore. Andiamo intanto dalle telefonate, se ha tratto qualche elemento universale di informazione per chi ci ascolta. Ma direi assolutamente sì, sia se intendo l'insegnante che lo studente. Mi domando in entrambe le storie, da quello che dicevano, soprattutto anche l'insegnante dice: ma non è facile fare qualcosa. Beh, mi domando dov'è la scuola, dov'è l'autorevolezza e non l'autorità della scuola. E anche nell'altro episodio, il ragazzo che comunque viveva a scuola, veniva aggredito a scuola, ma sembra quasi che nessuno si accorgesse. E in più c'è sempre, come anche lei diceva prima, e di cui parliamo sempre, ma la famiglia dov'è? Dov'è questa famiglia? Ecco, vediamo di dare qualche pratica o consiglio, se è possibile, ammesso che sia possibile. Episodi del genere continuano a accadere, accadono in maniera intensa. Oggi ne parliamo perché alla fine il video su Facebook è rimasto, lo stanno vedendo tantissime persone e si rendono conto. Il problema qual è? Quello dell'impunità. Lo fanno perché tanto non hanno paura che gli possa accadere nulla, non si rendono conto, anzi, per loro è la gratificazione di salire un gradino nella loro organizzazione sociale, nella loro gerarchia. Se avessero comunque il deterrente di qualcosa di grave potrebbe accadergli, lo farebbero meno? Beh, dunque, intanto il bullo o la bulla è popolare, è conosciuta e piace. Dall'altra parte abbiamo la famiglia che quando viene chiamata, che la frase classica e comune è: ma in fondo siamo ragazzi, insomma c'è sempre stato. Non è proprio così né l'una né l'altra cosa, perché gli adolescenti di oggi sono completamente diversi dagli adolescenti di 5, 10, 30 anni fa. Dall'altra parte la mancanza spesso di una scuola che con autorevolezza va sì a punire, ma a punire facendo comprendere quello che è stato fatto, perché non basta sequestrare il telefonino o dare 3 giorni di sospensione, perché anzi il bullo diventa ancora più forte agli occhi dei ragazzi. Ma io ho avuto un periodo che ho conosciuto un ragazzo adolescente che improvvisamente aveva cattivi voti a scuola, improvvisamente, non si capiva perché, era sempre andato bene, poi capì la famiglia, tanto è inutile girarci intorno, che accadeva perché nel tentativo disperato di diventare popolare come i bulli della scuola prendeva cattivi voti, sennò altrimenti sarebbe passato con un secchione, quindi il brutto voto comunque ti dava una sorta di nefasta popolarità. Questo è paradossale. No, no, assolutamente. Poi ci troviamo di fronte a ragazzi che da normali diventano bulli, da vittime diventano vittime bullo, ma comunque rimangono sempre in questo circuito nel quale poi tra ragazzi si parlano, ma come dicevo mancano tutto intorno quelle istituzioni che veramente appoggino, parlino e comprendino, perché poi noi adulti che dovremmo essere un modello, vediamo che oggi non lo siamo più, e quindi questa è grande una mancanza per loro. David, buongiorno. Buongiorno, salve. Io vi volevo raccontare questo mio aneddoto personale. Io da ragazzino, ho 43 anni, quando ero ragazzino ero il classico bullo, andavo a litis, facevo le mie belle risse quando andavo in discoteca e quant'altro. A 17 anni... Che anni erano più o meno? Faccio i conti, lei ne ho 43, avevo 17 anni. Quindi praticamente cosa successe? Che ero davanti alla fermata dell'autobus e mia madre mi provocò perché c'era un cartellone dietro che diceva corsi di paracadutismo. Io praticamente sfidai mia mamma, disse adesso ci vado, e mi trovai in un ambiente che ai tempi era un'associazione d'arma dove mi misero la mia vita nelle mie mani. L'AMPD, esatto. L'ho fatto anch'io, avevo 17 anni, l'ho fatto clandestinamente, io manco l'ho detto ai genitori, figuriamoci. Mia madre firmò. Vabbè, non è che sia un eroismo, ti attaccano una corda, ti buttano un aereo. No, però era uno sfogo, cioè nel senso che da quel momento lì in avanti mi trovai in un ambiente che mi moralizzò e mi inquadrò. Sì, quindi col pugnale tra i denti e il teschio, a noi la morte non ci fa paura. No, perché fortunatamente l'associazione di Bologna era molto improntata sull'aspetto sportivo, però l'aspetto che mi calmò è che io non avevo bisogno di fare il bullo per dimostrare qualche cosa. Io prendevo il sabato e la domenica, andavo a fare i miei lanci a 3000 metri e avevo qualcosa da dimostrare, da raccontare ai miei coetanei. Poi l'ho fatto per tanti anni, non è che mi sentissi un grande, lo facevo perché piaceva, ma ho fatto anche da 15.000 metri, non trovo sia una soluzione per risolvere i problemi. Comunque ognuno ha le sue soluzioni. Ringrazio il professor Luca Bernardo, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio tutti quelli che comunque hanno provato empiricamente a risolvere il problema. Grazie Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie a tutti gli ascoltatori.